Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici. Molti avranno riconosciuto la sigla di uno dei più fortunati programmi di cartoni animati degli anni Ottanta, e proprio a questi programmi si ispira il libro di cui vi parlo oggi. L'autore è Alessandro Aresu, che è poco più che trentenne, laureato in filosofia, animatore di un sito di dibattito politico, esperto di politica internazionale, che con Mondadori ha pubblicato per l'appunto Generazione Bim Bum Bam. 210 pagine, 17 euro. Attenzione, questo non è un libro che si pone nel il filone di tanti altri libri e di tante trasmissioni, di solito secondo me un po' stucchevoli, ossia nel solco della nostalgia di quando eravamo o erano, in questo caso i trentenni, bambini. No, questa è un'analisi fatta però con leggerezza e ironia sulle prospettive di questa generazione che è cresciuta con quei cartoni animati, una generazione che in fondo proprio dalle trasmissioni della propria infanzia ha ricevuto messaggi e sollecitazioni che non necessariamente coincidono, dice l'autore, con un presunto GPL, come lo chiama lui con una sigla, cioè il grande piano di lobotomizzazione che sarebbe stato ordito da Berlusconi ai danni del telespettatore italiano. E qui sta il punto. La generazione di cui parla Aresu è una generazione che rivendica una politica diversa rispetto all'attaccare o al servire Berlusconi, una politica che sia in grado di affrontare i problemi del nostro mondo, di superare le beghe italiane che appaiono del tutto ingiustificate. Scrive infatti l'autore: tutte queste stupidaggini non hanno nulla a che fare con la sopravvivenza dell'Italia e con le più importanti questioni strategiche della nostra epoca. E tra le più importanti questioni strategiche della nostra epoca, spiega nel libro, c'è la Cina e anche il modo di costruire una nuova cultura. Per esempio, per l'autore, la cultura visiva più moderna è certamente quella che passa dai videogiochi. Una tecnica, dice il libro, che la generazione Bim Bum Bam ha reso un'opera d'arte. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno ad Alessandro Aresu. Buongiorno. E Alessandro Aresu, nel suo libro lei definisce la generazione alla quale appartiene come una generazione senza voce, una generazione che non è mai stata considerata a dovere, non è stata coccolata dai sondaggisti, è stata snobbata da Giuseppe D'Arita e dal Censis nei suoi rapporti annuali. Come mai questa dimenticanza della generazione dei trentenni? Anzitutto io definisco la generazione dei nati tra il 1975 e il 1990, quindi i nati vivi sono circa 10 milioni. È dimenticata, secondo me, senza voce, soprattutto perché ibrida, diciamo senza un posto fisso nell'immaginario culturale e anche dei media. Non è né totalmente figlia della televisione né totalmente padrona di internet o nata attraverso internet, e non si è costituita quindi una sua voce in un grande evento storico, non è né padrona della caduta del muro di Berlino, che pure è avvenuta in quegli anni ma che appartiene a generazioni precedenti, e né capace di avere una reale padronanza dei processi economici e sociali che l'hanno vista più spettatrice che protagonista. Quindi il ruolo e il punto fondamentale in cui si colloca è quello della transizione, e io dico che e sostengo che il punto fondamentale è riconoscere questo carattere, che può anche essere una debolezza, per poi cercare di andare avanti e quindi non attaccarsi ai miti o alle realtà precedenti, ma riconoscere questo ruolo di transizione e questa difficoltà di avere una voce. E in questa sua analisi ha un ruolo importante la politica. Lei deplora, critica quella versione che lei stesso definisce paranoica, apocalittica e complottistica della politica. Una visione che contrasta con quello che i cartoni animati vi avrebbero insegnato, cioè, leggo dal suo libro, Spunk ci insegna che nonostante tutto è possibile ricominciare senza piangersi addosso. Anche questa visione della politica è abbastanza controcorrente. Sì, la mia idea, diciamo, è anzitutto, anche se è raccontata in modo ironico e per questo volutamente paradossale, perché naturalmente non penso che uno debba costruire i riferimenti della sua vita soltanto appoggiandosi ai cartoni animati, questo è abbastanza scontato, anche perché poi tutto ciò avviene attraverso un libro, quindi attraverso un'altra forma che non è quella dei cartoni animati. Però io descrivo alcuni cartoni animati che tra l'altro sono l'animazione giapponese è una forma d'arte straordinaria, che hanno dietro un insegnamento che non è quello che identifico con la nota immagine di Lucrezio poi ripresa da Hans Blumenberg del naufragio con spettatore, quindi di chi si vede confortato quando si trova sulla riva per una nave che sta affondando e di cui non è parte. In realtà quando parliamo dell'Italia, quindi del coinvolgimento nella politica, nella società italiana, dobbiamo renderci conto che in realtà non esiste questo naufragio con spettatore, perché noi siamo su quella barca. E quindi limitarsi, diciamo, da una parte o a dare le colpe sempre agli altri di quello che accade, oppure pensare che c'è stato un momento della nostra storia, lì il riferimento, dato che c'entra la televisione, è quello al ventennio berlusconiano, che ha alterato per sempre la coscienza degli italiani rendendoli nella loro totalità incapaci di intendere e di volere, naturalmente andrebbe in contrasto con l'insegnamento di Spank e dei cartoni animati, e quindi non sarebbe possibile ricominciare, perché se abbiamo perso il cervello una volta per tutte, il cervello, se non attraverso una complicata operazione non ancora scoperta, non può essere ricollocato nella sua posizione. Invece io sostengo che il cervello non è stato perduto, le nazioni possono ricominciare con la fiducia, con la coesione, con l'associazione, con lo spirito di rilancio. Il suo libro è punteggiato di alcune domande precise, anzi 131 domande precise per essere precisi. La domanda numero 41 suona: qual è l'errore fondamentale? Risposta precisa: prendersi terribilmente sul serio. Io sono d'accordo con lei. La ringrazio. Il libro, proprio essendo un gioco stilistico e ironico, un modo di cercare di raccontare la vita e le esperienze della società e le esperienze collettive, le esperienze che appunto dico all'inizio, con cui si cerca faticosamente di dire noi su qualcosa, è puntellato da quest'idea del cercare di porre ordine in qualcosa di complesso e talvolta di confuso, quindi attraverso l'idea di darsi delle domande precise, ma poi capire che questo ordine è fatto di profondità e di leggerezza e di difficoltà e di semplicità, e quindi ricondurlo tutto totalmente alla serietà e prendersi sul serio su tutto e attorno a tutto è un errore fondamentale nella costruzione sia di una nazione che più modestamente di un percorso di vita. Un protagonista muto di questo suo libro è la Cina. Lei torna molto su questo tema, sulla minaccia, sulla sfida rappresentata dalla Cina. Ecco, come vive questa vostra generazione questa relazione con la Cina? Come mai questo ruolo così importante attribuito alla Cina? Per diversi motivi, diciamo, il primo è personale, quindi la mia competenza, uno scrive di ciò di cui è competente, mi occupo di questo tema da tempo, in particolare per l'IMES, la rivista italiana di geopolitica, dello sviluppo cinese in riferimento all'Italia e dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. In secondo luogo, si confaceva alla dimensione stilistica del libro, diciamo, a questa sorta di formazione giapponese che ha ricevuto la generazione di cui parlo, e dove all'improvviso avviene questa transizione nell'immaginario tra il Giappone della televisione e i cinesi, mentre il Giappone viene relegato al sushi, che improvvisamente emerge come un altro elemento quasi di attenzione popolare, e quindi questi misteriosi cinesi diventano un oggetto, all'inizio misterioso e poi un oggetto di analisi, qualcosa di cui ci si deve interessare. E in terzo luogo, perché il libro ritorna anche sia in riferimento all'attivismo generazionale che in riferimento alle prospettive strategiche dell'Italia, all'idea della perdita di tempo, del fatto che negli anni vissuti da questa generazione in senso sociale e politico è stato perso del tempo. Invece la Cina è come se fosse l'oggetto del contrario della perdita di tempo, della enorme accelerazione a cui si può fare riferimento molto semplicemente, come si fa all'inizio del testo, con un'analisi di quello che succedeva nel nostro paese 30 anni fa e quello che succedeva in Cina 30 anni fa. Grazie ad Alessandro Aresu, autore di Generazione Bim Bum Bam. Buona domenica. Grazie a voi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Alessandro Aresu dunque ci ha ricordato quanto la Cina sia importante, quanto costante sia la sfida che ci lancia, e allora parliamo di Cina e lo facciamo con un libro provocatorio sul modello cinese, sulla deformazione che esso sta creando sull'economia internazionale e in particolare sul modello capitalista. Il libro è quello di Geminello Albi, che si intitola appunto Il capitalismo verso l'ideale cinese, pubblicato da Marsilio, 336 pagine, 21 euro. Il libro intelligente, un po' sulfureo in certi punti, che sfatta molti luoghi comuni e dallo stile inconfondibile. Un libro per pochi, osserva con una certa civetteria l'autore, perché spiega la più parte degli uomini, per non dire degli economisti, non sa la differenza tra io e anima, tra abisso, vuoto di piacere, di paura e utilità, il che rende questo libro per pochi. Ma in realtà questo è un libro che diventa un atto d'accusa sulla degenerazione del modello capitalista. Scrive infatti Geminello Albi: la noia e la vanità hanno pervertito l'Occidente. Ma Albi va avanti e si chiede se non sia questa fase del capitalismo a omologarci all'isterica piattezza orientale. La Cina non può originare dei mutamenti, può solo subirli, esservi indotta, mai avviarli. E allora appunto il libro si occupa di questo tema, della sfida rappresentata dalla Cina. Sostenendo la tesi, spiega l'autore, che la Cina sia mutata meno di quanto dal 1916 sia mutato il capitalismo. Una sfida, quella fra la Cina e il resto del mondo, ma soprattutto tra la Cina e gli Stati Uniti, che rischia di stritolare l'Europa. La Cina e l'America, spiega, avranno convenienza ad andare d'accordo, mentre l'Europa dei mandarinati di Bruxelles, scrive Geminello Albi, decadrà tragicomicamente. E quindi il libro diventa anche un grido di dolore sulle condizioni del continente, sulle sue prospettive, sulla perdita di identità culturale. Prospettive anche piuttosto inquietanti, come confermano le righe che adesso vi propongo. Quelle concatenazioni per le quali si è data espressione al capitalismo possono ora ordinarsi addirittura in un riassunto. Fino circa a inizio anni 70 si è incarnata un'economia del superfluo di massa che lo Stato ha plasmato dopo guerre di classi e stati. Quindi dilagarono gli stati alterati, con perdita dell'abitudine al lavoro, pensiero che decade a procedura, una speculazione di massa. Tutto il mondo somologò al peggio dell'americanismo, all'impero del suo estremo occidente, e il mercantilismo degli Stati Uniti, che vincendo due guerre in Europa e un'altra in Oriente, aveva sovvertito il quadro dello scambio, si mutò in liberismo. Ma ben strano. Ai figli dei vinti, in una guerra civile europea durata 30 anni, del resto era rimasto solo il povero talento per inventare quella commedia che chiamarono euro. Ne deriva che le guerre sono indispensabili sia alla Cina sia agli Stati Uniti, malgrado la loro professione di liberismo, non sincera. Giacché per potersi dire tale, gli americani dovrebbero convertire in oro i dollari. Invece li stampano più numerosi dei tappi di Coca-Cola, inflazionando da 50 anni l'universo. Il liberismo di Washington dovrebbe riconoscersi come una fase di narcosi, che ricerca in stati, non soltanto monetari e tutti alterati, la maniera di proseguire un'esagerazione, quella del lusso di massa, di consumi senza risparmio, ma presi a misura del mondo. L'omologazione ha ormai un nome: americanizzazione. Maniera usata dall'estremo occidente per omologare il mondo all'egoismo degli Stati Uniti d'America, trascorsi dalla barbarie alla decadenza, senza mai conoscere la civiltà. L'artefice dell'ingresso della Cina nel mondo contemporaneo è stato certamente Henry Kissinger, l'ormai quasi novantenne ex segretario di Stato americano, che avviò le relazioni diplomatiche tra la Cina e gli Stati Uniti. E di Kissinger esce il libro Cina, pubblicato da Mondadori, 514 pagine, 22 euro, tradotto da Aldo Piccato. Questo non è un libro di storia o di memorie, ma è un'analisi ricavata, spiega lo stesso autore, da conversazioni con i dirigenti cinesi sul modo in cui i cinesi guardano il mondo, ci valutano, decidono le proprie politiche. E naturalmente questa analisi è arricchita dal richiamo ai precedenti storici. In particolare Kissinger parla qui del rapporto tra i leader americani e cinesi, come si è andato sviluppando dal 1949 in poi e ricorda quale sia stata l'evoluzione del rapporto tra questi due grandi paesi, un rapporto difficile anche dopo il disgelo, che ha sfiorato anche in certi momenti lo scontro, ma con una linea di fondo di cooperazione che poi è stata quella che ha favorito l'esplosione della crescita economica appunto della Cina. Restiamo in Oriente, ma spostiamoci dalla Cina al Giappone con una appassionata ricostruzione storica che ha per protagonista la figura di un grande gesuita. Il libro è quello di Vittorio Volpi, che ha lavorato per moltissimi anni in Giappone, e si intitola Il Visitatore, Alessandro Valignano, un grande maestro italiano in Asia, pubblicato da Spirali, 366 pagine, 20 euro. Alessandro Valignano era un gesuita di Chieti, vissuto tra il 1539 e il 1666, che nel 1574 parte come visitatore di tutte le Indie orientali e non tornerà più in Italia. Valignano è un missionario, sottolinea Volpi, che manifestò una particolare abilità, quella di favorire l'incontro di popoli diversissimi per culture e tradizioni, cosa che rende il suo pensiero, scrive Volpi, ancora oggi di estrema attualità e un modello al quale ispirarsi. Valignano vivrà dunque 10 anni in Giappone, poi finirà la sua vita a Macao. E nel libro Volpi ci offre un bel affresco sia sul Giappone di quel tempo, sia sulle coraggiose scelte di quel gesuita che cercò di diffondere il cattolicesimo facendo leva sulla cultura indigena. Sentiamo per esempio a quali principi si ispirò il gesuita, principi che gli valsero non poche critiche dai suoi contemporanei. Valignano ha una speciale predilezione per i giapponesi, di cui ammira la buona educazione e raffinatezza, superiore a quella degli europei e degli altri popoli, le capacità intellettuali e pratiche, l'intelligenza, la formazione dei ragazzi che in poco tempo riescono a usare anche i caratteri latini. Apprezza inoltre l'importanza che i giapponesi danno alla pulizia, come pure la loro costanza e pazienza. Ne riconosce anche i difetti, la propensione per gli eccessi sessuali, la facilità con cui tradiscono le alleanze, l'inganno, la disinvoltura con cui uccidono. Valignano nota subito l'enorme diversità dei loro costumi e usanze rispetto all'Europa. Sa che è illusorio e anche ingiusto aspettarsi che le abitudini dei giapponesi cambino per il prossimo futuro e quindi stabilisce che siano i missionari europei residenti in Giappone a doversi adeguare alle consuetudini del luogo, lasciando naturalmente inalterato il contenuto della fede cristiana. Questo suscita l'opposizione di molti europei che ormai da un secolo percorrono tutti gli oceani del mondo e hanno uno spiccato senso di superiorità rispetto agli altri popoli. Non da meno sono i giapponesi, che a somiglianza dei cinesi, loro maestri, ritengono barbari tutti i popoli che non fanno parte della comunità dei paesi in cui vigono le istituzioni e gli insegnamenti che hanno avuto origine in Cina. Cominciare un dialogo tra i barbari del sud e la cultura del Giappone non è semplice. Comunque capirsi tra europei e giapponesi non è facile neanche ai giorni nostri, dopo più di 4 secoli da quando scrive Valignano. E a questo punto... il confettino. Oggi parliamo di divulgazione scientifica con il libro di un autore che è noto agli ascoltatori di questa radio, Federico Taddia, che intervista Mario Tozzi. Il loro libro si intitola Perché i vulcani si svegliano e tante altre domande sulla geologia. È pubblicato da Editoriale Scienza, 92 pagine, 11,90 euro, ed è illustrato da Roberto Luciani. E questo libro rappresenta un'introduzione divertente e appassionante ai misteri della fisica, al funzionamento della Terra, ma soprattutto al modo per capire come mai la Terra ogni tanto si inceppi. Prima di salutarci vi segnalo che a Roma dall'8 all'11 marzo si svolge la festa del libro che si intitola Libri Come, la sede è l'Auditorium Parco della Musica. La manifestazione sarà chiusa dall'intervento di un grande intellettuale, Tsvetan Todorov, e nel corso delle giornate avremo 99 incontri ai quali parteciperanno 225 personaggi, soprattutto scrittori. In particolare segnalo che ci sono 2 focus ai quali è dedicata questa edizione della festa del libro, e cioè il focus sulla letteratura spagnola e quello sulla nuova letteratura israeliana. E con questo ringrazio Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e le altre nostre trasmissioni. Buona domenica a tutti e arrivederci la settimana prossima.